Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ed eccoci qui per la seconda parte di Medium dedicata a Creation and Control. Allora, innanzitutto qui bisogna fare un grandissimo mea culpa, cioè ci siamo organizzati con i ragazzi per commentare le altre carte, addirittura c'era anche il buon vecchio Paddo, ma pur avendo creato il file era completamente vuoto. Per chi legge il forum su netrunner.it lo sapete già, ho perso questa registrazione. Non mi sono sentito di stare a riorganizzare un incontro a 4 perché capisco la frustrazione di aver commentato tutte le carte e poi trovarsi a doverlo rifare da capo. Chiaramente oggi non andiamo a commentare tutte le carte perché sono da solo e diventerebbe noioso. Ho fatto una sorta di selezione delle carte che secondo me verranno più giocate in assoluto di Creation and Control, ma non di tutte le carte, ma solamente delle carte che erano rimaste da commentare. Passiamo dunque al primo commento, e la prima carta che incontro, che sicuramente verrà utilizzata, è Levi AR Lab Access. Questa carta costa 5, 3 di influenza per poter essere giocata, è una carta Shaper e praticamente ti fa ripartire la partita come se avessi appena cominciato, cioè ti fa mischiare il tuo mazzo con la tua mano e con i tuoi scarti. Levi AR Lab Access viene messa fuori dal gioco, questa è la prima volta che vediamo un evento che rimuove dal gioco una carta e ti fa pescare poi 5 carte, quindi al costo 5 ti fa pescare 5 ed è un'ottima carta da mettere magari in uno per poter essere giocata verso la fine del tuo mazzo, in modo da poter ripartire e usare magari eventi che avevi finito di consumare, tipo accounts iPhone piuttosto che altri eventi che potevano essere comodi, oppure andare a ripescarti degli ice che erano stati trasciati e non potevano essere più degli icebreaker, chiaramente, che erano stati trasciati e non potevano essere più riutilizzati. È una carta da 3-3,5, diciamo, se ne vede in uno per è anche una carta da 5, nel senso che da 5 stelline, intendo, nel senso che chiaramente ha il suo ruolo all'interno della strategia degli Shaper e anche forse di altri mazzi. Purtroppo, avendo 3 di influenza, secondo me la vedremo prevalentemente negli Shaper, a meno che qualche altro mazzo non abbia delle combo particolari che la richiedono. Passiamo oltre. Allora, Next Design Guardian the Nect. Questa è un'identità, anzi in realtà è l'identità HB, però è una divisione della HB, quindi è una parte della HB che si occupa di guardare la rete, Guardian the Nect. E questa identità somiglia, diciamo, è la brutta copia o comunque la sorellina di Andromeda, cioè dà la possibilità alla Corp di poter installare 3 ice prima che il turno cominci e ripescare fino ad avere 5 carte, quindi prima che tutta la partita cominci questa identità ha la possibilità di proteggersi ulteriormente. Che dire, se hai 3 ice in mano è un pesca 3 e installa 3, quindi sono 6 click che vengono garantiti alla Corp. Se invece siamo di fronte a una situazione dove abbiamo un ice, 2 ice e poi ripeschiamo, potrebbe non essere proprio un granché. È molto quindi condizionale. Sicuramente insieme a questo tipo di identità bisogna farci un mazzo che ci giri intorno. Non possiamo più fare un mazzo da 17-19 ice, piuttosto io ne farei uno da almeno 25 ice. con tutto che chiaramente è oscurato dal fatto che prendere questa identità qua non ci consente di avere il bonus dell'installazione del punto del credito tutte le volte che facciamo la prima installazione. Quindi secondo me la vedremo giocata. Un'ulteriore limitazione di questa identità è che ha 12 di influenza, e quindi un ulteriore malus che forse la mette un po' da parte rispetto all'identità principale di HB, che assolutamente è solidissima, probabilmente è l'abilità più forte tra le identità. Quindi io gli do un voto di 3, anche 2,5 forse potrebbe essere onesto. La prossima carta che andiamo a guardare è quella che il Paddo ha definito la console che gli shape che mancava agli shaper. È chiaro che abbiamo visto una nuova console che è Monolith, chiaramente non convince nessuno, quindi OmniDrive, che non è nemmeno una console, la si può utilizzare in 3x, è un hardware, costa 3, chiaramente shaper, 3 di influenza, quindi essere giocata solamente tra gli shaper molto probabilmente, e fondamentalmente fa diciamo quello che il requisito base che puoi chiedere a una console, cioè hosta un icebreaker, un programma in generale. Questo forse differisce un po' dalle console che sono molto orientate verso gli icebreaker, ma in questo caso hosta un programma qualsiasi che abbia solo uno di memory unit o anche meno, e non conta diciamo per il limite che hai di memoria, e non solo, ti dà un credito ricorrente per usare quel programma. A costo 3 secondo me è ideale da sostituire magari a un Akamatsu Manchip, piuttosto che fondamentalmente ecco, fa la funzione di Cyber Feeder più Akamatsu insieme. Io gli do un buon 4 di voto, 4 stelline. Passiamo a Professional Contact. Ora, tutta la crew che faceva il commento a questa carta l'aveva un po' dismessa come una carta che fondamentalmente non fa bene né una cosa né l'altra, cioè non fa bene, non serve a pescare, non serve nemmeno a fare crediti, quindi di suo non fa nulla. Se dividiamo le due azioni e le analizziamo da sole, la rete a quanto pare ci ha un po' sbugiardato, perché è stata usata anche abbastanza intensivamente da parte dei giocatori durante questo mese in cui Creation Control è stata disponibile, e quindi hanno tutti riscontrato un'ottima funzionalità. Nel senso che chiaramente ti salva un click, ti permette di fare quello che si faceva prima con Magnum Opus. Tu facevi questo, un turno spendevi click solamente per pescare, per fare soldi, e il turno seguente spendevi click solamente per pescare carte, e poi eri pronto quindi di nuovo per poter fare le tue run attraversando magari molti ice. Con 8 click si generavano quindi 8 soldi e 4 carte. In questo caso con 8 click si sarebbe generato 8 soldi e 8 carte, quindi avremmo avuto un vantaggio notevole. Io ancora devo capire, non l'ho ancora mai giocata, quindi devo capire se effettivamente questa carta ha senso oppure è solo una chimera, e quindi dai, stiamo a vedere se supererà il test del tempo. Per ora io gli do comunque un 3, non riesco a dargli un 4 come voto. Project Votan è un'agenda, costa 5, ti dà 3 punti agenda, è viola, quindi Asbyroid. Abilità dell'agenda è: metti 3 counter su Project Votan appena la metti a punto. Il potere di questa agenda è: consuma un counter che è su Project Votan e scegli un Bioroid rezzato che è sotto approccio, quindi che è currently being approached. E per il resto del turno della run, questo ice ottiene una subroutine in più che è End Run alla fine di tutte le sue altre subroutine. Ora, Il pad, questa qui l'ha definita come la migliore 5.3 che c'è in circolazione, se non la sua, diciamo, sorpresa più bella che c'è stata in Creation and Control. Essendo una 5.3 non sono e di Asbioroid, non sono particolarmente entusiasta di questa carta, perché non credo vedrà tante, tanto utilizzo. Sicuramente è molto molto forte, a maggior ragione perché crea, in alcuni casi fa lo stesso effetto che potrebbe fare Nisei MK2, e quindi in 3x è veramente notevole, visto che Nisei ne ha solamente uno di counter. Bene, passiamo oltre. Io a questa gli do al massimo, diciamo, un 3, forse 4, perché mi ha convinto il pad che sia particolarmente buona. Passiamo alla carta probabilmente più parlata di tutto il set, cioè Real Kid Peddler, una nuova identità Shaper che ha 45 carte minimo e 10 di influenza. La sua abilità è stata molto chiacchierata perché la chiamano un po' come per dire l'inside job degli Shaper, ovvero nel momento il primo ice che viene incontrato in questo turno diventa un code gate fino alla fine della run. Attenzione, non è un inside job. Un inside job è un evento, è una sorpresa, quindi non necessariamente, chiaramente è una sorpresa solamente se lo giochi al di fuori di Criminal. Dentro Criminal non è poi una gran sorpresa. Comunque non ha bisogno di un icebreaker per poter funzionare, e quindi è molto diverso. Riel è l'unica identità che effettivamente può competere con una Kate, perché chiaramente perdi questa abilità, diciamo, economica di poter generare un credito durante le installazioni, quindi di poter avere uno sconto di uno durante le installazioni, però assolutamente come contro bilanciamento un'abilità di tutto rispetto. Chiaramente è una di quelle abilità che richiedono un mazzo fatto apposta su di esso. Ora, la sola presenza nel meta di Riel secondo me abbassa la qualità, o comunque la valutazione, di tutti i code gate di qualcosina, nel senso che andiamo ad avere un code gate che probabilmente incontrerà molto spesso dei code gate breaker, in virtù del fatto che Riel probabilmente ne giocherà almeno 6 nel suo mazzo, per poterne avere uno di primo turno e vederlo giocato. Molti hanno detto: ah, ma basta che come più esterno tu metta un code gate e l'abilità praticamente non si sviluppa, nel senso che trasforma un code gate in un code gate. Ma non ha senso questo discorso, perché fondamentalmente, come diciamo con Francesco, è una profezia autoavverante. Cioè, io ho Riel, tu mi ci metti come primo un code gate, io sono pieno di code gate breaker, chiaramente non vedo l'ora che tu mi metta dei code gate all'inizio della mia run. Attenzione, questo tipo di carta rivaluta molto, se non fosse già sufficientemente valutata, la carta Tinkering, perché chiaramente potendo trasformare gli ice in code gate attraverso un evento, viene massimizzata la potenza, diciamo, degli icebreaker che metto a terra. Io gli do un 4, se non un 5, ma no, diciamo 4 stelline come voto. Same old thing. Allora, questo è una risorsa che costa 0, è neutrale, la prima neutrale di cui parliamo oggi. È un double event, nel senso che non è proprio un evento, però siccome si trascia nel momento in cui la usi, può essere considerato, come dire, nella categoria degli eventi double, cioè quelli che ti consumano due click per essere utilizzati. Infatti l'abilità dice questo: spendi un click, trascia same old thing e gioca un evento dalla tua pila degli scarti pagandone il costo. Tutti hanno subito annunciato 6 accounts iPhone in un mazzo, perché effettivamente è la prima carta che ti viene in mente tra gli eventi che può essere giocata tante volte, è proprio Account Cipher. Sicuramente vedrà gioco in alcuni mazzi. Io non lo metterei in 3x, mi sembra un po' ridondante, forse un 2x. È una carta molto solida, ci può risollevare per esempio quando siamo messi male con il credito generando multipli hedge fund, ci può aiutare per recuperare i parasite giocando direttamente dalla pila degli scarti un déjà vu. Quindi sì, dai, io gli darei un 4 pieno senza stare a pensarci oltre. La vedremo giocata sicuramente. Oh, Self-Modifying Code. Questa è veramente una carta che sposta un pochettino il meta altrove. Prima, se volevamo durante una run giocare un ice al volo, potevamo affidarci quasi esclusivamente, se non esclusivamente, a Personal Workshop, perché l'avevamo precedentemente installato, pagavamo il credito e quello entrava mentre facevamo una run, e quindi all'occorrenza entrava. Ora abbiamo questo Self-Modifying Code che non solo ci fa fare questo effetto, cioè di far entrare un Icebreaker o un altro programma al volo, ma ce lo fa andare a prendere al solo costo di 2 crediti, quindi non... È sicuramente migliore di Test Run, che però è un evento che devo giocare prima della run, e quindi non posso giocarlo dopo aver visto l'ice che è stato rezzato. Sì, una carta assolutamente eccezionale, soprattutto in combo con altre carte, quindi sinergizza molto bene con tante altre carte. La vedremo giocata praticamente ovunque, quindi sì, un 5. Passiamo adesso a Scavenge. Un evento che costa 0, sempre degli Shaper, ha 2 di influenza e ci chiede di trashare un programma installato nel momento in cui viene giocato, ma è poi a disposizione sotto forma di crediti per installare un programma dalla pila degli scarti. Ebbene sì, puoi addirittura reinstallare lo stesso programma che hai trashato. Qualcuno ha detto femme fatale. Tutti noi siamo convinti che più ice, programmi ci saranno che fanno degli effetti nel momento in cui entrano in gioco, e più questa carta Scavenge verrà utile, tornerà utile. Per ora io gli do un 4, perché effettivamente è il suo giusto valore. Probabilmente diventa 5 nel momento in cui avremo più programmi che fanno effetti nel momento in cui entrano. Ora abbiamo Femme Fatale, Imp e qualcosina, non so, qualcos'altro forse ci sarà, ma le due più interessanti probabilmente sono queste. Nel momento in cui ne arrivano altri, probabilmente questa carta sarà un must in ogni mazzo Shaper, e forse in qualche altro mazzo, visto che costa 2 di influenza. The Source. Stiamo cercando di limitare i fast advance, e quindi vi mandiamo questa carta che vi salverà dai fast advance, ma anche no. Allora, The Source è una connection, quindi una risorsa, costa 2, è neutrale ma ha 2 di influenza, quindi vediamo per la prima volta questo nuovo sistema di usare carte neutrali che però consumano influenza lo stesso. E fondamentalmente dice che gli avanzamenti richiesti per tutte le agende sono aumentati di 1. Per rubare un'agenda bisogna pagare 3, e tutte le volte che un'agenda viene o rubata oppure viene portata a punti, quindi svolta, The Search viene trashato. Gnarlato e Flatline e Paddo siamo tutti d'accordo, diciamo, con il fatto che è arrivata troppo tardi ed è troppo poco efficace. In più, io vorrei semplicemente aggiungere che qui per punire uno abbiamo punito tutti. Mi sembra un po' come le regole che vengono fatte in Italia, che per punire gli evasori fiscali bisogna rendere la vita impossibile a chi invece le tasse le paga. Insomma, è vero che con questa carta qui eventualmente un fast advance fa fatica a fare il fast advance, ma fondamentalmente se giochi questa carta anche tutte le altre fazioni sono molto in difficoltà, quindi non hai messo una carta solo contro HB e contro lo sbaglio che hai fatto delle 3x2, ma hai creato una carta che se viene giocata non mette in difficoltà tutte le corp e la corporazione in generale non ha bisogno di essere messa in difficoltà visto che è già sotto rispetto al runner. Se non viene giocata, semplicemente hai fatto una carta che non serve a niente e il fast advance continua ad esistere senza nessun problema. 3, non di più, non ho altro da dire. Ultima carta di questa porzione di Creation and Control, ultima carta, come dire, degna di nota, altrimenti qui facciamo notte. Thomas Haas, signora carta, è assolutamente degna di nota. Innanzitutto, faction cost, quindi costo di influenza 1. La vedremo giocata non solo qui, ma anche altrove. Non solo qui su HB, ma anche altrove. Il suo effetto è semplicemente di essere una trappola e anche una banca al tempo stesso. Cioè, come banca io metto avanzamenti su Thomas Haas e quando poi sacrifico Thomas Haas ottengo 2 crediti per ogni avanzamento che ho messo su Thomas Haas. Quindi fondamentalmente click e soldo metto e 2 crediti prendo, è come aver fatto una sorta di click credito credito. Quindi non è una banca, cioè non è un generatore di crediti a tutti gli effetti. È un po' una trappolina, nel senso che chiaramente io la metto giù, ci metto degli avanzamenti, il runner spende dei soldi per venirmela a trashare, io gliela giro, trascio Thomas Haas, mi riprendo i soldi e il runner è a bocca asciutta e non ha ottenuto nulla. Ottima anche per esempio contro le run per andarsi a prendere i bank job, quindi faccio una run perché vedo un server sprotetto, faccio la run verso Thomas Haas, giro Thomas Haas, lo sacrifico, il server non esiste più, la run è andata a vuoto e quindi il runner ha sprecato un click. Poi se andiamo a guardare quali combo ci potrebbero essere, la prima cosa che mi viene in mente è Simon Diego per fare gli avanzamenti e poi andare a capitalizzare questi avanzamenti sotto forma di crediti. Un'altra cosa interessante potrebbe essere Matrix Analyzer, quindi per metterci degli avanzamenti e poi capitalizzarli, visto che mi costa 1 mettere l'avanzamento e 2 me ne ritornano. Un altro ancora interessante, forse il più interessante visto il meta che si sta creando, è nei mazzi che giocano Mid-Season Replacement e Psychographics. Questa potrebbe essere un generatore di soldi, cioè hai 5 tag, hai 10 tag, spendo 10 su Thomas Haas e con Psychographic metto 10 avanzamenti su di esso, lo sacrifico e ottengo 20 e mi sono raddoppiato l'economia in una sola azione, una singola azione, quasi raddoppiato perché comunque girare Thomas Haas mi costa 1, quindi c'è sempre quel creditino che devo spendere che rende il tutto antieconomico alla fine dei conti. Però un bel trick, ci piace, io gli do un 5 perché mi piace molto il design, mi piace molto la sottigliezza con cui è stata pensata questa carta. La rete gli dà un 4, probabilmente è il voto giusto. Abbiamo finito con la micro recensione delle ultime carte di Creation and Control. Mi scuso ancora chiaramente per il problema che c'è stato, per cui i file non erano disponibili, quindi l'audio non è stato registrato. Mi scuso veramente tanto con i 3 partecipanti al podcast che si erano impegnati una serata per decidere di spendere insieme questi commenti. Magari se mi darete la disponibilità in futuro si potrà rifare. Io adesso in questo periodo qui non avrei avuto veramente possibilità di poter organizzare di nuovo un evento dove ci trovavamo tutti e 4 insieme a commentare. Magari lo possiamo fare per Opening Moves, del quale abbiamo visto già tutta la spoiler completa, e mi piacerebbe sentire l'opinione, diciamo, di anche altre persone qui nel podcast. Per oggi è tutto. Continuate a runnare, continuate a difendervi dagli hacker e ci sentiamo alla prossima volta. Federico vi saluta, ciao! Seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.